Rassegna stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto, benvenuti dunque a questo appuntamento del sabato con la rassegna stampa internazionale. Io sono Gigi Donelli, in regia c'è Carmelo Lauricella questa mattina, questa rassegna stampa europea che viene realizzata anche con l'aiuto di Meav McMahon di Euronet Plus a Bruxelles. Allora vediamo quali sono le notizie, alcune delle notizie che segnaliamo appunto nel corso della settimana. Beh, la prima direi che è piuttosto divertente. Ricordate Helmut Schmidt? Forse quelli un po' più grandi tra noi sì, senz'altro. Helmut Schmidt, cancelliere tedesco. Bene, oggi è un signore di 94 anni che ha dimostrato una grande adattabilità nella vita, ma di sicuro non intende rinunciare alle sue sigarette al mentolo. Allora, leggiamo da Spiegel. Questa settimana, forse ci avrete fatto caso se seguite i nostri programmi, la stretta europea sulle sigarette. Bene, Helmut Schmidt avrebbe comperato una scorta piuttosto importante di sigarette al mentolo spendendo fino a 9.000 euro. Helmut Schmidt, lo ricordo, ha 94 anni, sembra che si sia comprato 200 cartoni di sigarette Reino, una marca che è tra quelle che, secondo la nuova legislazione dell'Unione Europea, sarà messa al bando. Infatti, sigarette al mentolo, sigarette aromatizzate alla frutta, insomma c'è tutta una casistica e tipologia di sigarette particolarmente pericolose. Queste dunque per i giornali tedeschi. In Olanda invece Volkskrant, c'è una sorta di riunione dei partiti della destra europeo. Secondo appunto il quotidiano olandese, un quotidiano vicino all'area della sinistra, si chiama De Volkskrant, c'è una preoccupante aggregazione di movimenti populisti. In particolare viene segnalato quello guidato da Geert Wilders, olandese a sua volta, che ha lanciato un'alleanza strategica con Marine Le Pen, dunque la figlia del più noto uomo politico nonché leader del Front National attualmente in Francia, e anche con il fiammingo De Winter. Insomma, secondo il quotidiano olandese Volkskrant, sarebbe in corso quella che definisce una preoccupante riunione di forze della destra populista. C'è invece ottimismo che viene anzi definito piuttosto insolito dalla Croix, dunque qui siamo in un quotidiano francese di ispirazione cattolica, ottimismo spiccato rispetto alle economie dell'Europa del Sud e i risultati che stanno ottenendo. Si parla infatti nell'articolo di La Croix di Grecia, Portogallo, Spagna, Italia e Cipro, tutte insieme, in un articolo che racconta appunto come il percorso verso la ripresa economica in realtà sarebbe più vicino di quanto le autorità europee di Bruxelles non vogliano lasciare intendere. Un articolo che appunto spicca senza peraltro dare dei dettagli e mi permetterei di dire magari unendo situazioni davvero distanti, unite forse solo dal fatto di essere dell'Europa meridionale, insomma ci sarebbero segnali particolarmente positivi da queste economie dell'Europa del Sud. Questa settimana si è parlato anche di Jean-Claude Juncker, noto diciamo sul piano internazionale soprattutto per il suo ruolo come capo dell'Eurogruppo, ma che è anche il primo ministro, o meglio era il primo ministro del Lussemburgo fino a una manciata di ore fa, lo è stato per 18 anni. Juncker ha dato le dimissioni nel corso della settimana, è stato accusato infatti all'interno di avere dedicato troppi sforzi, troppo lavoro, troppo del suo tempo all'Eurogruppo, troppo poco per risolvere i suoi problemi interni e nazionali. L'idea che magari ci facciamo del Lussemburgo è che di problemi non ne abbia poi così tanti. Di sicuro i cittadini del piccolo reame non hanno apprezzato le iniziative dell'Unione Europea sul controllo dei sistemi bancari che hanno coinvolto l'Austria e non poco anche il Lussemburgo. Insomma, le critiche dell'Europa nei confronti del sistema bancario lussemburghese alla fine sembrano aver avuto come vittima proprio Juncker. Secondo però il quotidiano Zürcher Zeitung, in questo caso è di Zurigo, è solo questione di tempo. Infatti Juncker in realtà avrebbe già una strategia per rientrare in pista. E ora andiamo in Ungheria. L'Ungheria dipende troppo dall'industria automobilistica, questo lo sostiene il quotidiano ungherese di Budapest, Nesha Spadak. Dice bene che questa settimana abbiamo appreso della firma di un grosso impianto dell'Audi. L'Audi ha aperto un impianto del valore di 900 milioni di euro a Győr. Tutto questo benissimo, 9.000 posti di lavoro. La critica però riguarda proprio diciamo la dipendenza del sistema economico ungherese proprio dall'industria dell'auto. Insomma, un articolo un po' ambivalente: da una parte si festeggia l'accordo fatto con la grande casa tedesca, dall'altro si sottolinea con preoccupazione una dipendenza che secondo il quotidiano Győr è eccessiva. E ora invece in Bulgaria, dove siamo, come dire, nelle scorse settimane ci siamo occupati spesso di questo che è il grande mercato della produzione di base del tabacco, delle foglie in sostanze. Qui invece il portale di informazione Off News rivela che molti contadini, molti appunto abitanti delle regioni rurali della Bulgaria sarebbero addirittura troppo spaventati persino per protestare. Afferma infatti il quotidiano che nella provincia sta crescendo una sensazione di grande distanza rispetto a quello che avviene nella capitale e dunque rispetto anche alle notizie, ai proclami e alle posizioni che vengono assunte nella capitale rispetto ai progetti europei. Infatti nelle aree rurali, spiega Off News, le persone sono troppo spaventati per affermare, far sentire la propria voce quando perdono il proprio lavoro. I villaggi sono molto piccoli, isolati, tutti conoscono tutti. Insomma, se vieni se manifesti la tua opposizione per la politica nazionale, presto, dice Off News, lo sapranno tutti. E se lo sapranno tutti, aggiunge, ci saranno poi dei problemi. Ecco l'inchiesta che Off News ha fatto nella Bulgaria rurale sostanzialmente racconta proprio questo. I giornalisti dicono che nelle piccole città le persone sono troppo dipendenti dai poteri economici che vengono definiti feudali, che hanno il controllo dell'economia locale, che lo hanno avuto per anni e che ora in questa fase di crisi, anche di ritorno di molti lavoratori dall'estero, insomma, fanno nuovamente sentire con forza la propria presa. Un'ultima notizia ci porta invece in Irlanda. Il racconto riguarda la decisione che è stata assunta in questa settimana dal governo di Dublino. Il governo di Dublino ha votato una legge, si chiama Protection of Life During Pregnancy Bill, che di fatto autorizza un limitato accesso all'interruzione di gravidanza. Secondo il sistema sanitario, secondo le informazioni e le statistiche del sistema sanitario irlandese, ogni anno 4.000 donne irlandesi vanno negli ospedali del Regno Unito, negli ospedali e nelle cliniche per interrompere la propria gravidanza. E sempre secondo appunto l'articolo in questione dell'Irish Times, nel corso del solo anno passato 124 di queste donne avevano meno di 18 anni. Insomma, la questione dell'aborto è stata quindi votata e affrontata dal Parlamento, ma resta estremamente controversa all'interno del paese. Uno dei parlamentari europei conservatori del Fine Gael, Lucinda Crichton, ha infatti annunciato, nonostante il voto del proprio partito, ha annunciato una presa di posizione e di distanza, e sembra che proprio su questa questione il Fine Gael Party sarà destinato a spaccarsi ancora una volta, poiché questo era già accaduto e ancora una volta quando si trattava di affrontare proprio queste tematiche. Ecco dunque, questo un quadro di alcune delle notizie che l'Europa appunto condivide attraverso la stampa scritta, e quella online. Siamo arrivati alla conclusione, prendo solo un secondo per ricordarvi che riprendono lunedì i nostri programmi dedicati quotidianamente all'Europa, in particolare Europa 24 alle 13:15 minuti. Vi ricordo anche l'indirizzo europa@radio24.it per le vostre segnalazioni, per le vostre domande. E con questo è davvero tutto, vi auguro un ottimo fine settimana, la rassegna stampa europea torna sabato prossimo. Rassegna stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.